A tempo di sport con Carlo Genta. Pressato da Rone, era andato al raddoppio anche Defoe, si deve liberare il pallone la Germania e infatti lo recupera l'Inghilterra. Il lancio di prima di Barry, colpo di testa di Lam. Buon pomeriggio a tutti, Laura Vanossi in redazione, Valeria Bernardi in regia. Germania e Inghilterra invece in corso e in onda, 50° di gioco, Germania 2 Inghilterra 1, ed è già una partita che profuma di storia per molti motivi, innanzitutto perché Klose ha raggiunto Pelé. Non sto scherzando, 12° gol ai mondiali per Klose, il 50° della sua carriera con la maglia bianca della Germania, è stato il gol che ha aperto questa partita dopo 20 minuti di gioco. Vi dico la verità, non so se condividete, per 33 minuti, 34 minuti l'Italia non sarebbe riuscita a far molto peggio dell'Inghilterra. Sembrava l'Italia vestita di rosso, per ritmi, per paura, per incapacità di fare alcunché. Poi sotto 2-0, perché Podolski ha raddoppiato al 33°, ecco che l'Inghilterra, esattamente come l'Italia l'altro giorno, si è svegliata in una partita di altro livello. Vi assicuro che insomma, ho rivisto per modo di stare in campo in questa Inghilterra paralizzata l'Italia dell'altro giorno. Da lì si è svegliata ed è stato un finale di primo tempo incredibile. Prima il gol di Abson al 37° su cross di Gerrard e poi al 38° l'episodio che più farà discutere di questo mondiale, perché si è visto il remake del 66 a parti invertite. Lampard che colpisce dal limite dell'area, palla sulla traversa, palla che rimbalza a terra dentro la porta di almeno mezzo metro. L'arbitro non concede il gol, attenzione, traversa dell'Inghilterra in questo momento con Gerrard, una punizione da 30 metri. L'Inghilterra che si è svegliata, che adesso capisce che può uscire dal mondiale, l'Inghilterra che ci prova, una Inghilterra diversa da quella che abbiamo visto fin qui. Ebbene, questo episodio giallo, gol non concesso, Inghilterra che va al riposo ed è tuttora sotto 2-1. Io saluto e ringrazio Alberto Costa, inviato del Corriere della Sera in Sudafrica. Ciao Alberto. Ciao. Stai guardando la partita? Sì, davanti al televisore, come la stai guardando tu, perché io sono a Johannesburg. Senti, sbaglio o esagero se dico che l'Inghilterra fino al 2-0 sembrava l'Italia? Sì, credo che sia che nessuna squadra qui presente al Mondiale, forse la Corea del Nord, possa eguagliare quello che è stata l'Italia, anche perché teniamo presente che è vero che l'Inghilterra era paralizzata, ma di fronte aveva la Germania, sì. Noi avevamo la Nuova Zelanda, che equivale calcisticamente parlando all'Italia nel cricket, e avevamo la Slovacchia, quindi credo che da 20 anni non avessimo un girone così facile, e credo che peggio di quello che hanno fatto gli azzurri quest'anno sia impossibile. Sia impossibile fare, però comunque un'Inghilterra in stato di ipnosi, come l'avevamo vista nel girone, come l'avevamo vista contro l'Algeria. Però si è svegliata di colpo all'improvviso, sì, verso la mezz'ora, e adesso la partita praticamente è apertissima, perché non sembra che possa finire così. Alberto, saprai benissimo in questi giorni qual è il clima in Italia, no? Secondo me oggi è la deadline, l'ultimo giorno utile, aspetto gli ascoltatori per rovesciare nell'aria rabbia, veleno, azzurro, poi sarà meglio tornare a guardare un mondiale che comunque a me piace molto, forse in controtendenza. Altrimenti si diventerebbe un po' patetici, un po' ridicoli a continuare ad andare avanti a parlare di questo pasticcio combinato. Come tutta da ridere è la rilettura che tu hai fatto oggi sul Corriere della Sera, bellissima, a posteriori delle dichiarazioni degli azzurri prima del mondiale. Mi fa piacere, anche perché io non ho avuto modo né di vedere la titolazione che è stata fatta, sì, perché qui per un non so per quale inghippo non mi sono stati consegnati i giornali italiani oggi. Allora è gira euforico, maggio mago e i cavalli di Jesse James Lippi, questo è il titolo del tuo pezzo. In effetti a rileggere col senno di poi, con i risultati alla mano, quelle dichiarazioni, insomma, riusciamo anche a capire diversi motivi per cui poi è andata così. Resto convinto comunque, Alberto, che al di là della strana che la strana inedita insicurezza di Lippi sia diventata l'insicurezza della squadra intera. Ma guarda, strana, secondo me non è molto strana. Chiaro che Lippi, per il suo ruolo, che era quello di responsabile della spedizione, diciamo il condottiero, era costretto in pubblico a dire certe cose, però io sono convinto che Lippi per primo si fosse reso conto della pochezza della squadra che aveva in mano. Io concordo con lui quando dice che non ha lasciato fenomeni a casa, diciamo tranne probabilmente io avrei osato un po' di più, ecco, però sono osservazioni marginali. Io avrei ad esempio portato Totti, che pur diciamo claudicante, logorato nel finale della stagione, ha segnato con la Roma. Quindi un Totti con la poca qualità che avevamo, Totti magari prendiamo la partita con la Nuova Zelanda, lo inserisci nell'ultima mezz'ora, negli ultimi 20 minuti, hai un'arma in più che magari ti sarebbe servito a risolvere questa partita. Io avrei portato anche Balotelli, facendogli un discorso chiaro dall'inizio, perché come ho scritto preferisco fare figuracce con Balotelli, che comunque è il futuro e cominciare a fargli fare esperienza internazionale, piuttosto che fare figuracce con Di Natale o con Pepe o Criscito, insomma con questa gente che pur con tutto rispetto non si è dimostrata di livello internazionale, perché il livello internazionale non è avere piedi buoni al mondiale e avere, scusate l'espressione, le palle. L'Italia era terrorizzata e ce l'ha confidato, l'ha espresso pubblicamente, l'ha rivelato pubblicamente Cannavaro nella conferenza stampa d'addio, dicendo: ieri guardavo in faccia i miei compagni, cercavo di svegliarli, di stimolarli, ma li vedevo preda alla tensione. L'Italia è mancata proprio, non abbiamo gente di personalità. Lippi questo l'ha capito e secondo me lui in tutti i modi ha cercato di rimescolare le carte, sperando in un colpo di fortuna di trovare non so, la mossa vincente, però facendo così e non trovando questa mossa vincente, ovviamente ha confuso ancora di più le idee a gente che non ha il massimo della personalità. Insomma, il cerchio si chiude. Si è messo a trovare il classico 10 euro per terra, cercare il classico 10 euro per terra, e non l'ha trovato. E tutti gli altri e i giocatori si sono impauriti di questa incertezza del capitano del vascello. Alberto, per chiudere, in questi giorni naturalmente leggo come te varie ipotetiche squadre che Prandelli potrebbe vestire d'azzurro. Continuo a pensare, anche qui un po' in controtendenza, che non siamo messi in modo poi così orrendo. Ripartendo dai nomi che hai citato tu, Totti no, Balotelli senz'altro, magari Cassano, Girardino ancora giovane, Bonucci, Ranocchia, Criscito, magari Santon, che spero di rivedere a livello. Resta il fatto che sono stati 2 anni buttati, perché probabilmente con la squadra che vediamo oggi sui giornali, che potrebbe essere quella di Prandelli, si doveva andare a questo mondiale. Ma io non sono totalmente d'accordo con quello che dici tu, perché sì, però vediamo che tutta questa gente, i nomi che tu hai fatto, Criscito, Bonucci, Bonucci non è stato manco utilizzato, quindi non sappiamo esattamente cosa valga. Però sai, Criscito, sinceramente, faccio un nome a caso, sì, un giocatore, un bel giocatore, diligente, ha qualche numero, ma almeno qui al Mondiale, a livello internazionale, mi è apparso veramente poca cosa. Sì, abbiamo qualche giovane interessante, però il fatto che la nostra Under 21 non vinca più niente ci deve far capire che se non troviamo una contromisura qui perché tu mi stai parlando comunque di una squadra che possa comunque reggere le qualificazioni per l'Europeo nell'immediato, ma nel futuro la vedo veramente dura, perché tutti siamo pieni di stranieri. Io sono convinto di una cosa, non è tanto Milito, Ronaldinho, Juan che rovinano la nostra nazionale, sono i vivai che oramai sono invasi da giovani stranieri dove prima c'erano gli italiani. È lì che non si riesce più a tirare fuori qualcosa, e se l'andazzo proseguirà, sinceramente io il futuro lo vedo molto nebuloso, lo vedo proprio buio. C'è un ascoltatore che mi domanda, per salutarti, se ti farai Maradona stasera tu. Ma insomma, Maradona, devo dire la verità che io sarò in controtendenza. Maradona l'ho ammirato come giocatore, però non è che mi sfagioli molto come personaggio. Penso che il calcio abbia bisogno di esempi positivi, di gente leale, corretta, non di gente che si abbia fatto quello che ha fatto lui e che violi qualsiasi regola, anche la più elementare. Cioè è l'unico che non si presenta alle conferenze stampa che la FIFA organizza per tutti. Vi racconto un episodio e poi vi lascio andare a cose forse più interessanti. Io, quando sono stato qui in Sudafrica a fine febbraio a Sun City, che c'era un workshop organizzato dalla FIFA, presenti tutti i commissari tecnici delle nazionali che sarebbero state poi qui al Mondiale, c'erano tutti, mancava Maradona. Allora, siccome io ero nello stesso albergo dove la FIFA aveva alloggiato tutti questi personaggi, da Lippia, Domenech, Capello, eccetera, al mattino a fare colazione mi capito vicino al tavolo dove c'era la delegazione argentina, perché c'erano anche i medici e i responsabili di stampa. Allora mi alzo, mi presento e chiedo a uno che poi mi ha detto essere il medico della selezione, dico: ma dov'è Diego? Non c'è. Lui mi ha detto: no, aveva cose più interessanti da fare. Cioè, voglio dire, quindi il signor Maradona personalmente non è che mi esalti molto, insomma, come personaggio, ecco. Quindi non credo che farò il tifo per lui. Non farai il tifo per lui. Grazie Alberto, buon lavoro. Grazie a voi, ciao. Grazie Alberto Costa. Un po' troppo rockstar per Maradona per soddisfare tutti i palati, compresi quelli esigenti di Alberto Costa. Adesso ci fermiamo per il traffico. Germania e Inghilterra sono sempre sul 2-1, siamo al 62esimo, la partita è vivissima, la Germania prima vicino al gol con un tiro da calcetto, di punta, di Müller, palla vicina al palo, però ripeto, partita molto aperta. Vi aspetto, 800 24 00 24, traffico. Strade in diretta. Traffico intenso di rientro dalle località di Villeggiatura di Romagna, Liguria e Toscana e tra Veneto e Lombardia. Iniziamo dalla 14 Adriatica, dove ci sono code a tratti verso Bologna tra Pesaro e Castel San Pietro. Code anche sulla diramazione per Ravenna in uscita alla barriera verso la 14. Verso Genova code a tratti per traffico sulla 10 tra Albenga e l'innesto con la 26, quindi sul lungo tratto della 10. Poi sulla 12 si incontrano code verso il capoluogo ligure tra Lavagna e Genova Nervi. Molti veicoli in viaggio con rallentamenti anche sulla 7 verso Milano. Lungo la 4 rallentamenti e code a tratti per traffico intenso verso Milano tra Mestre e Grisignano e tra Sirmione e Brescia Est. Infine si rallenta per traffico intenso sulla 11 Firenze Mare tra Lucca Est e Pistoia verso Firenze. Ed è tutto, torniamo ad aggiornarvi tra mezz'ora circa. Tempo di sport. Era messo bene. Vada Freddi, qui fa due cose, perché c'era in agguato proprio nel movimento di Defoe. E vi dico che è bellissimo questo Germania-Inghilterra 2-1, 63esimo. Adesso l'Inghilterra, insomma, da quando è andato sotto 2-0 ha rotto gli indugi, ha buttato via la paura, si è tolta l'armatura di dosso la squadra di Capello e adesso gioca alla pari con una Germania che mi ha incantato almeno per un quarto d'ora, è stata stupenda tra il 15esimo e il 30esimo del primo tempo, triangolazioni veloci, sempre pericolosa, molto fresca, molto veloce, molto precisa, al di là di Klose che ha raggiunto, ve lo ripeto e non è uno scherzo, Pelé, 12 reti ai mondiali, prossimi traguardi, Fontaine 13, Gerd Müller 14 e Ronaldo 15, nel mirino per questo giocatore che era un panchinaro, la punta di riserva, come sapete, il Bayern Monaco, così come Podolski, autore del secondo gol, era un panchinaro al Colonia. Abituale compagno di viaggio, nonché compagno di mondiale, Massimo Callegari, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Che domani sera sarà qui a questo microfono a condurre il programma serale che va avanti tutte le sere fino alla fine del mondiale, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10:30. Come ti sembra questo Germania-Inghilterra, Massimo? È una bellissima partita, bellissima, poi con questo con questo gioco tremendo della storia che torna, fa il gol non gol a parti, cioè con le stesse parti ma con un risultato diverso, il risultato opposto. Harst che decise la finale mondiale del 66 contro la Germania, l'ho detto prima, partita che profuma di storia e non è ancora finita, perché manca Rooney ancora un po'. E anche qui potrebbe essere, insomma, Rooney che segna e da lì non smette più fino alla fine del mondiale, no? Una suggestione già vista. Eh sì, ma potrebbe anche essere che l'Inghilterra, se riesce a riemergere da una partita così, poi assume una carica difficile da controllare. Però c'è da sottolineare che, come in altre situazioni, anche rispetto a quello che si è visto per l'Italia, non esiste una motivazione che viene fuori da sola e un aspetto psicologico che è svincolato da quello tecnico, nel senso che è vero che l'Inghilterra ha ritrovato sicurezza e forza mentale dopo la qualificazione, però la Germania sta vincendo la partita perché tecnicamente giocatori più veloci e è riuscita anche tatticamente, con gli inserimenti dei centrocampisti e con altre scelte tecniche, a mettere in difficoltà gli avversari e evidenziarne i limiti tecnici. Sì. Siamo ancora, Massimo, nel territorio però in cui le grandi nazionali hanno tutto da perdere e poco da guadagnare, perché è un'esclusione agli ottavi. Dai quarti in poi diventa un discorso diverso. Però nella prima fase e fino agli ottavi rimane il territorio in cui hai tutto da perdere. Quindi io dicevo prima, forzavo prima il paragone tra l'Italia e l'Inghilterra, però come linguaggio del corpo, come atteggiamento, come paura quasi paralizzante, l'Inghilterra dei primi 35 minuti mi sembrava l'Italia. Attenzione, c'è una punizione di Lampard a cui è stato tolto appunto quel gol che, insomma, non c'era neanche bisogno della moviola. Parte Lampard, la sua punizione finisce sulla barriera, ancora Inghilterra al limite dell'area, ma la Germania riparte. Massimo? No, per quello che dicevi è vero, nel senso che c'erano delle affinità, però mentre la Germania qui ha un'opportunità Müller enorme e trova il 3-1. 3-1 ed è Müller che segna il terzo gol della Germania e l'eliminazione per Fabio Capello si avvicina. La Germania mi sta facendo una grandissima impressione in questo in questa partita, e in particolare questo Müller, giocatore trovato dal Bayern Monaco in questa stagione, mi sembra un giocatore fantastico, onestamente. Sì, devo dire che anche qui c'è una carenza tecnica e tattica clamorosa, nel senso che un contropiede 3 contro 2 come subisce l'Inghilterra da una punizione a favore è una cosa che nel calcio moderno non è ammissibile. Come non è ammissibile prendere un gol su rimessa laterale, cosa vista l'altro giorno. O da rinvio dal fondo, perché il gol che ha aperto questa partita è iniziato su un rilancio del portiere Neuer e la palla è arrivata a Klose, che ha resistito ad una carica di Abson, e in scivolata ha segnato un gol bellissimo. Però su rinvio del portiere, come su rimessa laterale, a questo livello capita raramente, anzi capita mai, capita forse all'oratorio. Sì, e questo a ribadire che, insomma, onore a Capello e Lippi per quello che hanno fatto, però dal punto di vista tecnico e della gestione di certe situazioni hanno delle responsabilità che sono svincolate proprio dalla motivazione che potevano avere i giocatori dell'Italia o dalle paure che potevano avere quelli dell'Inghilterra, ed erano tutte situazioni che potevano anzi essere migliorate se ci fossero state delle certezze tecniche diverse, anche se potremmo qui anche aprire, non è la sede e non ci sono i tempi, però si potrebbe parlare di quali motivazioni poche hanno diritto di avere giocatori come De Rossi, Chiellini, Montolivo, Gilardino e altri che in carriera non hanno vinto niente. Sì, non c'è dubbio, Massimo. Sentiamo prima l'ascoltatore di oggi insieme, Lele da Bari, 800 24 00 24, numero verde. Buongiorno. Ciao, salve. Buon pomeriggio. No, volevo riferirmi un po' all'intervento di Alberto Costa, sì, quando parlava del Lippi che avrebbe dovuto trovare il colpo di fortuna. Il deca per strada. Sì, come se si trattasse del gioco delle tre carte. Io ritengo comunque che a questi livelli tutto debba essere portato ad una programmazione seria sin dall'inizio. Io ritengo che colpa principale della nostra estromissione, a parte le scelte tecniche sulle quali c'è un commissario tecnico, ovviamente non si discute, una condizione atletica penosa da parte dei nostri calciatori, una condizione fisica, sì, che ci ha messi in condizione di sudditanza nei confronti di squadre che forse non avrebbero dovuto neanche avvicinarsi come qualità tecnica alla nostra nazionale, e poi il fatto di aver insistito su alcune scelte le prime partite con Gilardino e aver tenuto Cannavaro sempre al centro della nostra difesa, nonostante su 5 gol presi 4 gol siano colpa del giocatore della Juventus. Sì, sì, insomma, condivisibile, no? A parte il fatto che la condizione atletica, io guardando la prima partita dell'Italia, questa attenzione, l'unica forse sì, decente forse. Sì, forse. Ho visto tre partite, attenzione perché c'è la Germania che segna il quarto gol su azione di contropiede, altra azione insomma rara da vedere a questo livello, contropiede condotto in fuga solitaria, un uomo solo al comando da Ozil sulla sinistra, palla in mezzo per Müller che è arrivato solissimo e ha battuto il solito Calamity James. Massimo, su cosa? Sull'Italia? Innanzitutto su questo quarto gol della Germania che adesso insomma rischia di eliminare l'Inghilterra con figuraccia storica. Un altro contropiede partito da un rinvio difensivo, sì, e Ozil da fallo laterale a favore e Ozil che si fa tutto il campo sulla sinistra, serve in mezzo per Müller che segna un gol facilissimo. Ma va bene il 3-1, va bene la disperazione, va bene tutto quanto, ma beccare due gol di questo tipo, insomma, credo che domani i giornali inglesi avranno da scrivere. No, è pazzesco questo. Ripeto, ci sono anche, credo, delle responsabilità nella gestione di alcune situazioni, ma l'abbiamo detto, penso ad esempio a un altro aspetto che è molto importante. L'anno scorso ho avuto la fortuna di seguire per piacere le finali dell'Europa Under 21, la finale era stata Germania-Inghilterra, finì peraltro 4-1 per la Germania, e c'erano in campo Neuer in porta, Ozil, Khedira, e altri giocatori che fanno infatti parte li invidio molto nazionale. Infatti invidio molto questa squadra tedesca, lo dico pubblicamente, sì. perché è una squadra, avrei voluto vedere un'Italia con questa faccia a questo mondiale, no? Lo dicevo prima, una faccia giovane, inesperta, probabilmente non pronta per vincere un mondiale, ma in Brasile secondo me questa Germania sarà la squadra da battere. Esatto. E quanto all'Italia, alla base sicuramente, tra le considerazioni che faceva l'ascoltatore, quella della condizione atletica, e quindi ad esempio un'altra valutazione, è vero, può anche essere vero, oppure lo possiamo discutere, ma facciamo finta che non lo discutiamo, che ci siano rimasti a casa giocatori che potessero individualmente fare la differenza, a parte che siamo in un calcio moderno in cui il collettivo sovrasta nettamente il valore del giocatore individuale. Ma al di là di questo ci sono degli altri modi di giocare a calcio, allora si gioca sul pressing, si gioca sulla condizione fisica, sulla freschezza, su altre caratteristiche, sulle palle inattive. Certamente. L'Italia ha subito il gol su palle inattive e non ne ha segnati. Certamente. Quindi questo. Ma l'Italia ti è sembrata, sembrata sgonfia fisicamente? A me sì, fino a quando ho visto quell'ultima mezz'ora dell'ultima partita in cui mi sono domandato se fosse una questione di cambio di cervello. Tutto è collegato, però per quello che avevano speso prima, nelle due partite e mezzo in cui non avevano giocato, non avevano corso, probabilmente qualche energia ce l'avevano. E poi il discorso di Cannavaro, al di là del valore individuale del giocatore e delle sue prestazioni, è anche un messaggio sbagliato che arriva poi agli altri, perché se la competitività parte da una gestione leale dei valori da parte di chi fa le scelte, e se un giocatore si permette prestazioni pessime per tutta la stagione e rimane comunque il riferimento principale anche all'interno dello spogliatoio, perché lo si è capito dalle parole sue nell'ultima conferenza stampa, le scelte anche relative a Cassano ed altri sono state condivise con i giocatori più importanti, è chiaro che anche i più giovani fanno più fatica a esprimersi liberamente, si sentono un po' meno tutelati, certo. E quindi meno motivati anche a migliorare, insomma. Sì, quello spogliatoio era troppo pesante anche e ingombrante anche nelle decisioni, sì, di Lippi, questo si è detto molte volte. Grazie Massimo, ti aspettiamo qui domani. Grazie a voi, buona domenica. Un abbraccio, grazie Massimo Callegari. Germania 4, Inghilterra 1, 74esimo la Germania ha la partita in pugno. Rooney si avvia ad uscire da questo mondiale senza avere lasciato alcuna traccia in maniera assolutamente imprevedibile, L'Inghilterra è insomma vicinissima, anzi è di fatto eliminata agli ottavi di finale. Mi domando cosa stia succedendo adesso nel Regno Unito, dopo lo scopriamo però. 800 24 00 24, numero verde, vi aspetto. Non mi sposi più? Ma Pucci, ho tradito la tua fiducia. Mai. Pucci, tu sei il solo. Il solo a non saperlo. Per un'azienda avere corrette informazioni sui propri partner è essenziale. Credit Reform Italia, con il servizio rapporto classificato, ti assicura l'informazione commerciale su tutte le aziende italiane con un clic. Credit Reform è leader in Europa per le informazioni commerciali online. Meglio saperlo prima. www.creditreform.it. Numero verde 800 425 325. Opel. Si avvisano i passeggeri che solo a giugno Zafira partirà da 16.200 euro. Last Minute Opel. Solo a giugno. Le offerte da prendere al volo. Zafira con clima ed ESP da 16.200 euro. Vola dai concessionari Opel. Ti bruciano gli occhi, sono rossi e irritati. I colliri omeopatici possono darti un pronto sollievo. La loro formula li rende adatti a tutti, anche per un uso frequente. Sempre più medici e farmacisti scelgono i medicinali omeopatici. I leader mondiali dell'omeopatia sono i laboratori Boiron. Da 80 anni con più di 4.000 persone nel mondo. Ti bruciano gli occhi? Prova l'omeopatia. Scegli anche tu Boiron. Festeggia i mondiali di calcio 2010. Estate al sole, esperienze mondiali, calcio, cultura e tradizioni dal mondo. A Milano tutti i giorni spettacoli, concerti, mostre, degustazioni e tutte le partite dei mondiali in Sudafrica su maxi schermo. Dall'11 giugno all'11 luglio, dalle 13 alle 23, in via Monterosa 91, nella prestigiosa sede del gruppo 24 ore. Estatealsole.it. Ti aspettiamo. Un'iniziativa Sasa, eventi e comunicazione, in collaborazione con gruppo 24 ore. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Il debole sistema nuvoloso che oggi è transitato al sud si allontanerà nelle prossime ore verso la Grecia e domani l'alta pressione garantirà condizioni di bel tempo un po' in tutta la nostra penisola, a parte un po' di instabilità pomeridiana sulle zone montuose con qualche isolato rovescio temporale sulle Alpi occidentali, sull'Appennino emiliano e più giù su quello della Calabria. Le temperature sono previste in lieve aumento al sud, le temperature più elevate si toccheranno al centro-nord con massime fino anche a 30-31 gradi. Per maggiori dettagli consultare il sito meteo.it e per il meteo è tutto. Pronto? Pronto? Sono l'antropologo Erminio Balladori. Sono stato rapito dalla tribù Linear, ma niente paura, mi trattano benissimo. Di più, mi rispettano. La tribù Linear ha un vero culto del rispetto. Rispetto dei tempi di liquidazione, rispetto tra assicurati e assicuratori, rispetto anche del denaro. Posso risparmiare fino al 40% sull'RC Auto. Capito perché mi sono fatto rapire da Linear? Chiama l'800-112-233. Fonte libretto rosso 4 ruote 2009. Emozioni mondiali? No! Emozioni da prezzi mondiali! Tante super offerte da togliere il fiato, come il telefono cellulare Samsung E250 con fotocamera, lettore MP3 e radio FM che costa solo 39,90 euro. Expert. Gli esperti siamo noi! Prezzi mondiali! Solo da Expert! Va ora in onda il primo radio comunicato di 9 secondi che dura 30. Finalmente possiamo prendercela comoda. Come va? Tutto bene? Famiglia? Lavoro? È vero, c'è crisi. Il bambino? La scuola? Che bravo. Vacanze? In montagna fa fresco, però al mare che spasso, eh? Sì, già. Pubblicità. Per tutto giugno e luglio l'usato Audi prima scelta Plus a condizioni finanziarie esclusive. Grazie ad Audi Summer Plus, l'unica opportunità che dà il tempo per essere colta, solo presso le concessionarie aderenti all'iniziativa. Tempo di sport. Attenzione a Podolski. Tiro ribattuto. Lampard. 78-30, Germania 4, Inghilterra 1. Incredibile errore arbitrale, danni degli inglesi senza Moviola, le porcate continuano, scrive un ascoltatore via SMS. Altri ascoltatori vi aspetto, 800 24 00 24 è il numero verde. Il chip nel pallone io lo metterei, l'unica concessione tecnologica che farei al calcio, questo l'ho detto già mille volte, se non volete il chip mettiamo i giudici di fondo come voleva Platini, mi va bene lo stesso. È chiaro che situazioni di questo tipo nel 2010 si fa fatica a digerirle, perché la discrezionalità arbitrale in questo caso non conta nulla, è semplicemente una questione fisica, una questione geometrica, no? Bisogna, se il pallone è dentro bisogna dare il gol, non c'è dubbio. Sono abbastanza certo anche del fatto che nella conferenza stampa che seguirà questa partita Capello cavalcherà questo episodio, poteva essere il gol del 2-2, e cavalcherà questo episodio nel tentativo di nascondere un'Inghilterra che continua a pensare impresentabile, onestamente, perché al di là di questa reazione di rabbia che ha avuto dopo il gol del 2-0 tedesco, in questo secondo tempo è stata fatta a pezzi dalla Germania con due azioni da contropiede che è raro vedere nel loro sviluppo, è raro vedere così nel calcio internazionale appunto del 2010. Non so come la pensate voi, 800 24 00 24, non tanto meglio dell'Italia questa Inghilterra, continuo a ripetere. Tanto, come vi ho promesso, cominciamo a fare un salto nel Regno Unito, perché immagino che lì insomma ci sarà molto da scrivere su questa partita. Lorenzo Amuso da Londra, buonasera. Buon pomeriggio. Sì, una delusione atroce per tutta l'Inghilterra, perché insomma ci si aspettava un'altra partita, non necessariamente una vittoria, ma sicuramente un'altra partita. 20 minuti alla fine, un risultato già scontato, l'eliminazione dell'Inghilterra ha mortificato gli animi e le speranze, insomma, e ha ridimensionato una squadra che si è presentata al mondiale come terza favorita e che invece, sì, insomma, viene esclusa. Tu dici bene, il gol, non gol di Lampard è ovviamente una pagina nerissima per la storia del mondiale. È altresì vero che, così facendo un'analisi più ampia della partita, la Germania si è dimostrata oggi nettamente superiore all'Inghilterra e sta meritando il passaggio ai quarti di finale. Insomma, Capello giustamente rimarcherà, perché il calcio è uno sport episodico, rimarcherà il fatto che è un conto cominciare il secondo tempo sul 2-2, è un conto avere la consapevolezza di dover recuperare un gol, è altresì vero che i due contropiedi che hanno concesso alla Germania di incrementare il vantaggio fino al 4-1 sono due contropiedi, come giustamente facevi notare tu, difficilmente in una competizione così importante si vedono, insomma. Sono due contropiedi da torneo notturno, dei bar, se vogliamo chiamare il loro nome. Uno su una punizione battuta da Gerrard finita sulla barriera, da lì si è sviluppato il contropiede, l'altro addirittura su rimessa laterale inglese, un contropiede 1-0 di Ozil, che si è fatto tutta la fascia a sinistra e ha servito a Müller il più semplice dei gol. Una squadra che vuole rimontare ma che ha un'idea che parte da 2-1, quindi non una scalata impossibile. Una squadra che concede due gol di questo tipo è una squadra che non merita di andare avanti, è una squadra che non ha le idee chiarissime. Lorenzo, Carlo, dimmi. Se mi concedi una giustificazione parziale e un aggravante. Sì. Anche nel primo tempo l'Inghilterra, soprattutto in difesa, nella fase difensiva, ha sofferto tantissimo, e se fosse finito il primo tempo 2-0, 3-0, non ci sarebbe stato nulla da recriminare. Certo. E questa è un'analisi che è stata fatta anche da ex giocatori che oggi sono commentatori nella televisione, Hanson per esempio uno di questi, Waddle un altro, e invece la giustificazione parziale è che non dimentichiamo che l'Inghilterra pochi giorni prima dell'inizio del mondiale ha perso Rio Ferdinand, non solo il capitano della squadra ma anche centrale difensivo titolare in coppia con John Terry, e ha perso dopo la prima partita anche Leslie King, che era il primo sostituto. Quindi si è trovato a giocare un ottavo di finale con la terza scelta, Upson, che è un buon giocatore del West Ham, certamente non è una primissima scelta. Capello lo ha preferito a Carragher, che era squalificato nella terza partita del girone eliminatorio contro la Slovenia, che aveva garantito l'accesso agli ottavi, sì, all'Inghilterra. Una scelta scelta, appunto quella di Capello, discutibile, però insomma lui ha rinnovato la fiducia a quello che era un giocatore che sulla carta era una terza scelta. Quindi certo, l'Inghilterra si è presentata a questo mondiale senza un difensore sul quale avrebbe puntato, ecco. Sicuramente Upson è quello che ha segnato il gol del 2-1, ma è anche quello che ha concesso quello dell'1-0, esatto, anche in questo caso su rinvio dal fondo del portiere, perché la palla è arrivata a Klose direttamente da Neuer. Klose ha resistito, è riuscito a resistere fisicamente in maniera del tutto lecita ad Upson e ha segnato questo gol dell'1-0 che ha aperto la strada alla Germania. Lorenzo sta lì, un ascoltatore in linea, Matteo, provincia di Pavia, 800 24 00 24, numero verde per parlare con noi. Matteo. Sì, salve, volevo fare solo una considerazione. Prego. Di come il CT tedesco ha interpretato bene, secondo me, le convocazioni tedesche nell'unico senso possibile, dando spazio ai giovani. Infatti di questa Germania noi ricordiamo che ci sono diversi elementi che giocavano in quella finale dell'anno scorso dell'Under 21 tra, sì, Italia e Germania, mentre della nostra Under 21 italiana Lippi non ha portato nessuno. Secondo me perché Lippi, dopo aver vinto nel 2006, lo ringraziamo tutti per aver vinto il mondiale, si è leggermente montato la testa e ha divinificato se stesso e nessuno è stato... Ma guardi, Matteo, forte, Matteo ha ragione, ha sempre ragione Roberto Beccantini. Il CT che vince un mondiale dovrebbe essere rimosso per decreto, questo è indubbio. Esatto. Dovrebbe essere rimosso per decreto perché quei fili con un passato che è così grande sono impossibili da tagliare, è evidente. Io ho detto prima e confermo, io invidio profondamente, l'invidio non è un bel sentimento, ma invidia calcistica la confesso, invidio profondamente la Germania. Questa Germania che ha saputo cambiare anche filosofia, questa Germania multietnica, questa Germania giovanissima che magari non vincerà, probabilmente non vincerà questo mondiale perché non è ancora pronta. Però, ripeto, tra 4 anni in Brasile, questa Germania che ha cominciato ora a costruire, questo è il 78 tedesco, è quello che per noi è stato il 78, perché è una squadra che per freschezza, per incoscienza, per corsa, per voglia, mi ricorda un po' l'Italia dell'Argentina del 78. Ebbene, questa Germania sarà la squadra da battere tra 4 anni. Non so se allora ci sarà ancora Capello sulla panchina inglese. Tu cosa dici, Lorenzo Muso? Tutto da scoprire, è una margherita da sfogliare, perché la federazione aveva fatto sapere, insomma, tramite le gole profonde che ovviamente, sì, parlano con i giornali, che in caso di eliminazione già nel turno preliminare, insomma dopo la fase a gironi, si sarebbe aspettata dimissioni, la dimissione di Capello immediatamente, nonostante un contratto che scade nel 2012 dopo i prossimi europei. È vero che non solo l'eliminazione con la Germania, ma il modo in cui l'Inghilterra lascia questo mondiale, parte dal Sudafrica, è un risultato abbondantemente al di sotto delle più fosche aspettative, anche perché non ricordiamo che Eriksson è stato rimosso dal ruolo, dalla sua posizione dopo 2/3 quarti di finale, 2 nei mondiali e 1 agli europei, e insomma sembrava che fosse il peggior allenatore al mondo. Capello esce dai mondiali dopo aver perso 4-1 contro la Germania agli ottavi di finale. È una posizione veramente difficile, certo, come dicevi tu, verrà ricordato il gol di Lampard, il gol fantasma di Lampard e tutto quanto, le possibili attenuanti, però alla fine della giornata il risultato è pesantissimo, è un ridimensionamento fortissimo, ma non solo di questa, per quanto riguarda l'Inghilterra, ma di una generazione, perché la Golden, la generazione d'oro dei Lampard, dei Gerrard, Rooney è ancora molto giovane, però è stata la grande delusione. Un palcoscenico internazionale, certo, insomma, non ci sono più alibi. Questa qua è una generazione di giocatori che evidentemente a livello internazionale, e parlo soltanto di nazionale, perché sappiamo bene che le squadre inglesi negli ultimi anni hanno dominato in Champions League, però a livello di nazionale non ha rispettato neanche le minime attese che il paese si aspettava da loro. Certo, e Rooney è la stella più deludente, la stella attesa più deludente di questo Rooney mondiale. Rooney è ancora giovane, ecco, a parziale giustificazione, lui è ancora relativamente giovane, un altro mondiale da protagonista lo può ancora fare. Certo è che Rooney in una fase finale di una competizione internazionale, e mi riferisco a mondiali e europei, non segna da 6 anni. Quindi dal 2004, dal 2004 in poi lui non ha mai segnato né in un europeo né in un mondiale. E questo, insomma, cominciano ad essere indizi molto pesanti e continuano a tornarmi in mente. Tu mi ritorni in mente Sven-Goran Eriksson quando disse che allenava la nazionale inglese, disse: quando mi approccio a una grande competizione mi trovo in mano dei fantasmi dei giocatori che sono, perché troppo spremuti dalla stagione britannica così gonfia di partite, questi non ne hanno davvero più. Quindi hanno la faccia di quei giocatori, hanno la faccia di Lampard, Gerrard e Rooney, però non ne hanno più le gambe. E questa può essere un'altra verità. Certo, immagino un lunedì impossibile per Fabio Capello e per questa Inghilterra che domani tornerà a casa. Grazie Lorenzo Muso, se mai ci sentiamo dopo lì da Londra, dopo la prima partita, quando sentiamo Capello magari rifacciamo due chiacchiere nel corso di questo programma. Traffico poi, Enzo dalla provincia di Milano, continuiamo a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24, Germania 4 Inghilterra 1, 2 minuti di recupero, 89 e 30, l'Inghilterra va a casa. Scopri i nuovi server HP con processore AMD su radio.hp.com. Vi presenta Strade in diretta. Traffico molto intenso dalle località di Villeggiatura per i rientri del fine settimana. Sulla 13 Bologna-Padova è un incidente a causare code tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Il resto tutto traffico, code a tratti sulla 14 Adriatica verso Bologna tra Pesaro e Castel San Pietro, code anche sulla diramazione per Ravenna in uscita alla barriera verso la 14. In direzione di Genova, code a tratti sulla 10 tra il Bengel e l'innesto con la 26. Code sulla 12 poi verso il capoluogo ligure tra Lavagna e Genova Nervi. Molti veicoli in viaggio anche sulla 7 in direzione di Milano. Lungo la 4 rallentamenti e code a tratti per traffico verso Milano tra Mestre e Grisignano e tra Sirmione e Brescia Est nella zona del Lago di Garda. Code a tratti poi in Toscana sulla 11 Firenze Mare tra Lucca Est e Pistoia per traffico intenso verso Firenze. Andiamo al sud, traffico intenso e lavori sulla 3 Salerno-Reggio Calabria, si rallenta tra Pettina e il raccordo Siciliano-Potenza in direzione di Salerno. Infine un nostro ascoltatore segnala al numero verde 800 08 36 22 lunghe code in colonnamenti sulla statale 145 Sorrentina nei pressi di Castellammare verso Napoli. Ed è tutto, torniamo ad aggiornarvi tra mezz'ora circa. Promo 24. Chi viaggia in auto deve dare priorità alla sicurezza senza rinunciare a risparmio e prestazioni. Con la campagna Incentivi Sicurezza 2010, Pirelli insieme ad Autostrade per l'Italia e Telepass fa risparmiare fino a 170 euro. Chi acquista 4 pneumatici vettura, infatti, ha 100 euro di incentivo da regalare anche ad amici e familiari per un successivo acquisto di pneumatici. E in più, i clienti Telepass Premium avranno fino a 70 euro di premio in pedaggi autostradali. Promozioni valide fino al 14/8/2010. Info, regolamenti e rivenditori aderenti su pirelli.it. Tempo di sport. Evidentemente non è un mondiale né per gli italiani né per i santoni riconosciuti del calcio, Lippi, Capello per l'appunto, gente che trova questo mondiale il fallimento peggiore di tutta una carriera. Fontaine 4-1, stravince nel punteggio e anche nel gioco e vola ai quarti di finale per l'Inghilterra. Come dice questa immagine, solo la delusione, solo la disperazione. Hanno giocato una partita macchiata da una decisione pesante e sicuramente un macigno su questa gara. Avremmo potuto vedere, se l'Inghilterra non fosse stata scippata di un gol sul 2-2, un altro secondo tempo. È un errore che resterà nella storia di questo mondiale, di questa partita, ma non leva niente alla bravura della Germania che vola nei quarti di finale. Eh sì, e l'Inghilterra invece vola a casa a ricevere, immagino, ortaggi vari, no? Quelli che ieri non sono stati riservati alla nazionale italiana. Ieri qualcosa di migliore, cioè l'indifferenza, può essere anche un segno di, chissà, di una civiltà recuperata, ritrovata, da costruire. Potrebbe, non è il mondiale per i santoni, potrebbe essere il mondiale per allenatori che sembravano vecchi rottami come Tabarez e il suo Uruguay, per allenatori che sembravano assolutamente improbabili come Diego Armando Maradona. Enzo, provincia di Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, volevo solo dire, al di là della mediocrità delle due squadre, l'Inghilterra e l'Italia che sono usciti, con questi due alibi che hanno avuto, sia Capello che Lippi, dei due gol che sono, questo qui addirittura sfacciatamente valido, quello di, sì, dell'Inghilterra, e quello di Lippi mi pare pure, no? Quando è stato preso col ginocchio all'interno della porta. Non sarà un alibi, no, per questi due allenatori? No, ma quello della, sull'Italia non so di cosa, ma cosa si riferisca. Ma quello che è stato preso col ginocchio. No, ma non era gol. L'altro giorno ho sentito anche dire da Aldo Cazzulli, intervistato da Dario Ricci laggiù in Sudafrica, che non abbiamo peso all'interno della federazione internazionale perché non ci hanno concesso quei due episodi a favore, ma per forza, l'arbitro ha visto giusto, non c'era niente da concedere all'Italia. Uno non era gol e l'altro era fuori gioco, quindi la decisione era sacrosante. Quanto al cavalcare gli alibi, adesso vediamo Capello, c'è chi scrive, scommetto una birretta che Capello citerà l'episodio ma non lo cavalcherà. Mi spiace per lui, ma credo che gli inglesi non riescano a gestire la rigida serietà professionale, solo buoni per il campionato. Questo non lo so, adesso vediamo se Capello cavalcherà quell'episodio, ma se lo cavalcherà sarà solo per nascondere un'Inghilterra impresentabile, un'Inghilterra che secondo me... se doveva essere la squadra che, come ha detto Capello, andiamo per vincere il mondiale e la missione è quella, l'obiettivo è quello, beh, allora prospetto, immagino un difficile rientro a Londra. Allora, nessun dubbio sul fatto che il migliore del mondiale azzurro ci sia, lui sì, è stato bravissimo, Alessandro Alciato da Sky. Ciao Alessandro. Che presentazione, grazie. Ah, ma, hai fatto un lavorone in condizioni un po' più difficili rispetto a quelle di 4 anni fa. Quindi i complimenti te li faccio pubblicamente. Difficili, perché a un certo punto non sembrava neanche di essere a un mondiale, perché c'erano dei momenti in cui giocavi in uno stadio come a Nelspruit, nuovissimo, ti giravi dalla tribuna e vedevi una baraccopoli di 400.000 abitanti. Insomma. Sì. No, c'è dubbio. Poi anche dentro quello stadio non c'erano i leoni, ma quasi, in quello spogliatoio. Eh sì. Ascoltami, dimmi la verità. Quando hai capito che saremmo tornati a casa? Adesso si può dire... No, quando l'hai capito? Io non dirmi al 90° della partita con la Slovacchia, perché non ci credo. No, l'ho capito dopo, diciamo, la prima partita, diciamo la seconda con certezza, ma non guardando la partita, perché poi uno spera sempre no, che le cose possano cambiare, che quelli del 2006 possano ricordarsi di chi sono stati e di chi sono ancora probabilmente, ma parlando con i giocatori dopo la seconda partita, ma le cose che si dicono lontane dalle telecamere, lontane dai microfoni, e lì anche loro erano decisamente pessimisti e molti dicevano non arriviamo lontano, che sono poi le cose che hanno detto invece davanti ai microfoni, davanti alle telecamere dopo la terza partita. Ma Alessandro, è stato triste, almeno per me, ma immagino anche per te, vedere giocatori cui vogliamo bene esposti quasi al ridicolo. Mi riferisco a Gattuso, a Cannavaro, a De Rossi, a Zambrotta. È stato triste. Io sinceramente mi aspettavo di più dai campioni del mondo, proprio perché è vero, sono vecchi, come si dice, sono avanti con l'età, sono forse da rottamare, come dice qualcuno, però insomma, da gente come Gattuso, come De Rossi, mi aspetto sempre che tirino fuori qualcosa. Adesso magari per Gattuso era più difficile, perché nel Milan ha giocato pochissimo quest'anno, le prime due non le ha giocate, voi sapete che lui se non gioca poi perde tantissimo anche a livello di morale, a livello di testa. Però non so, De Rossi che sbaglia nella prima partita e fa far gol agli avversari, De Rossi che in quella decisiva sbaglia di nuovo e fa far gol agli avversari, e sono due segnali brutti, certamente. Certamente, hai avuto l'impressione che fosse una questione di gambe, vedendoli tutti i giorni? No, io ho avuto l'impressione che fosse proprio una questione di testa. Quando Lippi parla di terrore nella conferenza stampa post Slovacchia, ha ragione. Bravissimo. Io non so di chi sia la colpa, cioè sua sicuramente, ma non solo sua, perché poi è facile non sparare contro Lippi adesso, perché è lo sport nazionale. Ma non c'è dubbio, è lo sport nazionale, ma condivido fino a un certo punto. Secondo me Lippi ha trasmesso, la sua grande colpa è quella di aver trasmesso insicurezza a questa squadra, insicurezza che era sua, perché capiva che non era una squadra competitiva. Però questo continuo balletto dei moduli, questo continuo balletto dei giocatori, il togliere Gilardino, che era un suo uomo, alla fine, l'ultima partita, l'altra sera si parlava con Giovanni Galli e diceva giustamente: se scegli Gilardino, se Gilardino è il tuo centravanti, è il tuo giocatore, stai con lui fino alla fine, e glielo dici io sto con te, ti difendo, però tu mi dai tutto, se poi andiamo a casa insieme tra i fischi. Non l'ha fatto Lippi, e questo non è stato da Lippi. No, questo assolutamente è vero, infatti Lippi ha la sua colpa, ci mancherebbe altro, sarei un matto a dire il contrario, però non è che l'atteggiamento di Lippi nello spogliatoio, nel chiudere il gruppo in se stesso, nel preservarlo dall'ambiente esterno, nell'indicare i giornalisti come nemici, in questo Lippi è stato uguale al Lippi del 2006. Sì. Certi giocatori, quelli nuovi, giovani, l'hanno presa nella maniera sbagliata, si sono terrorizzati, come ha detto Lippi, hanno avuto paura. Io mi ricordo uno sguardo visto nello schermo durante la telecronaca, insomma, anche se ero lì sul campo, di Marchetti che diceva tutto. Sì, come no. Marchetti che era terrorizzato di essere lì in una partita decisiva per andare avanti nel suo primo mondiale. Come no, hai ragione. Alessandro, un'ultima cosa, invece Capello non molto meglio, eh. Questa Inghilterra, continua a ripetere, un po' forzando, però non molto meglio rispetto all'Italia, da nessun punto di vista. Sì, non so se è stata meglio l'Italia che si è evitata un 4-1 agli ottavi o l'Inghilterra che esce prendendo una valanga di gol dalla Germania. Non lo so, mi sembrano più o meno sulla stessa barca, con la differenza che Lippi più o meno diceva, no? Ah, mi piacerebbe rivincere il mondiale, sarebbe il sogno. Capello lo diceva direttamente. Ha detto, noi in Sudafrica andiamo per vincere il mondiale, lo dobbiamo vincere. Sono dichiarazioni un po' diverse e vediamo domani i giornali inglesi cosa dicono, insieme. Diranno le peggio cose, immagino. Porca miseria. Grazie Alessandro, buon lavoro, complimenti ancora. Grazie a te. A presto, grazie Alessandro Alciato. Io chiudo questa prima ora insieme, poi ne abbiamo un'altra con Michele da Milano. Sì, salve. Salve. Sera. Dica. Stasera, gente. Buonasera. Ma il mio intervento non vuole essere assolutamente una giustificazione della, così, della figuraccia dell'Italia, però guardando in generale ai numeri e facendo una premessa che è statisticamente molto difficile ripetersi dopo una vittoria, poi tutte le colpe di Lippi a me stanno bene, le squadre europee stanno facendo moltissime, non solo l'Italia, una figuraccia, non potrebbe esserci anche un problema di preparazione fisico-atletica nell'emisfero australe sbagliata, con squadre dell'emisfero australe, mi riferisco in particolare alle squadre sudamericane che corrono come delle lippe, e le squadre europee invece abituate a climi magari un po' diversi che fanno un po' fatica, perché mi suona strano, prima partita così e poi siamo andati incalando addirittura, mi sembra anche in concomitanza del ma lei clima. Se si riferisce all'Italia, attenzione, parla Capello, Michele, parla Capello. Ma secondo me sì, perché 2-0, 2-1, 2-2 ovviamente sarebbe stata un'altra partita, perché poi abbiamo subito dei contropiedi che, essendo sbilanciati in avanti cercando di raggiungere il risultato, però la cosa sorprendente è che un mondiale nel periodo della massima tecnologia non ci sia né la tecnologia per decidere se è gol o non gol, e neanche messo il quinto arbitro di dietro alla porta. Purtroppo qualcuno deve sempre pagare prima che questo venga effettuato. Mi dispiace, ma però è così. Primi 35 minuti però un po' di sofferenza. Che cos'è che vi ha messo in difficoltà della Germania? Forse soprattutto dietro? No, la Germania è una squadra molto veloce, molto molto rapida. Quando ripartono hanno grande qualità e grande velocità. Noi abbiamo cercato di mantenere il possesso palla, non è che ce lo permettessero molto. Però, insomma, sai, io credo che noi quando ci eravamo risvegliati e venuti fuori, loro erano in sofferenza, perché anche nel secondo tempo, prima del loro terzo gol, siamo andati vicino, abbiamo colpito una traversa, abbiamo fatto delle azioni pericolose. Loro sono stati molto bravi, hanno questa capacità di partire in contropiede con della gente con grande qualità. C'è qualcosa che si poteva. Lo mandano via. Ecco qua. Grazie a Fabio Capello, Marco. Questo era Fabio Capello in diretta ai microfoni di Sky. Beh, Stefano, ho vinto una birretta. Lei che dice? Secondo me una birretta che Capello citerà l'episodio, ma non lo cavalcherà. Secondo me l'ho vinta. Passi pure che riscuoto. Via Monterosa. Ci sentiamo dopo. Tempo di sport. La notizia del giorno è indiscutibilmente quella stampata sul tabellone mondiale pochi istanti fa. La Germania ha distrutto l'Inghilterra 4-1. È vero che resta Che resta questo gol segnato da Lampard e non concesso dalla Rondo, con una svista clamorosa che ci tornerà tutti insieme a parlare di chip nel pallone, ripeto, ipotesi condivido, di moviole, ipotesi condivido molto meno, che tornerà, che rimanderà Platini sul cavallo del giudice di linea non voluto da Blatter. Insomma, io continuo a pensare che nel 2010, se il pallone supera la linea, si deve sapere con certezza, il gol deve essere concesso, ma non molto oltre, perché se cominciamo a parlare di... cominciamo ad entrare nella discrezionalità dell'arbitro, non sono più così d'accordo. 800 24 00 24 è il vostro numero verde. Per rispondere a Michele, che è intervenuto prima, diceva mondiale difficile per l'Europa per condizioni climatiche. Certo, è un mondiale complicato per questioni... più che di metodo, di altura, di complicazioni varie ed assortite, però non può essere l'unica giustificazione. Ad esempio, la Germania mi sembra una squadra in perfetta salute, in perfette condizioni fisiche, e questo si è capito fin dalla prima partita vinta 4-0 con l'Australia. Adesso il tabellone lascia intuire, lascia immaginare, vediamo cosa succede stasera in Argentina-Messico, però lascia sognare un quarto di finale tra due squadre, le migliori due squadre viste fin qui, onestamente, cioè Germania e Argentina. Vediamo stasera l'Argentina con il Messico, però l'incrocio potrebbe essere questo. Io ho altri ascoltatori in linea, Mario da Bari e Andrea da Roma. Mario, buonasera. Buonasera, signor Genta. Io appunto ho finito di vedere la partita Germania-Inghilterra da pochi minuti e sono d'accordo sulla vostra diesania sulla partita. C'è stato un momento comunque dove l'Inghilterra ha segnato il 2-2, tra virgolette, dove la partita proprio in quel momento poteva cambiare. Purtroppo io penso che quell'episodio abbia bloccato gli inglesi, forse psicologicamente, perché poi in quel momento, a parte... che Capello non può purtroppo vincere un mondiale con quella difesa, tra virgolette, perché sono troppi gli errori che hanno fatto, anche da gente esperta come Terry. Sì. Altri meno esperti. Allora, io ripeto, Mario, a me sembra che l'Inghilterra non abbia fatto, a conti chiusi, una figura molto migliore di quella dell'Italia. Torno a ripeterlo, ma per difendere nessuno, in tutta onestà, perché sono posizioni indifendibili, quella di Lippi come quella di Capello. Capello partito dichiaratamente per vincere questo mondiale, Lippi per riprovarci. Sembrava evidente che quelle di Lippi erano più che altro suggestioni, quelle di Capello a tutti erano sembrate ipotesi più fondate, visto anche il cammino dell'Inghilterra fin qui. Però l'Inghilterra ha giocato una prima fase da coprirsi gli occhi. Ripeto, siamo sempre nel territorio, per le squadre che vogliono vincere un mondiale, nel territorio più viscido, insidioso, no? Quello che arriva fino agli ottavi di finale, in cui hai tutto da perdere e nulla da guadagnare. Però l'Inghilterra ha giocato due brutte partite nella prima fase, una pessima con l'Algeria, che come qualitativamente non è andata molto lontana da quella giocata dall'Italia con la Nuova Zelanda. Oggi è chiaro che quel pallone entrato è un grande alibi, però resta sempre un grande dito, un dito di un gigante che indica la luna. La luna dice che la Germania ha fatto a pezzi l'Inghilterra, che l'Inghilterra ha preso almeno tre gol ridicoli, il primo, il terzo e il quarto, tre gol che a livello internazionale capita raramente di vedere. Il primo direttamente sul rilancio del portiere, e gli altri due su contropiedi che, insomma, ripeto, sul 2-1 e all'inizio della ripresa, dopo un quarto d'ora della ripresa, non capita di vedere per una squadra che ha le idee chiare. Quindi mi sembra un fallimento totale su tutta la linea quello inglese. Cioè, il senso di questa partita, al netto di quell'episodio della palla entrata, dice che l'Inghilterra ha fatto una figuraccia. Questo è quanto, secondo me. Andrea da Roma, buonasera. Buonasera, rapidissimamente, se la squadra che vince il campionato italiano ha 9 giocatori su 11 stranieri, io non voglio essere nazionalista, però se si fa un mondiale per nazioni, si fa un mondiale per nazioni, altrimenti facciamo un mondiale da club. Se si fa un mondiale per nazioni, si vogliono nazioni che abbiano dei vivai. Ultima cosa, qui qualcuno qualche volta delle responsabilità se le dovrà pur prendere. Abete, sì, dice: ho scelto l'allenatore che ha vinto i mondiali l'altra volta. Vabbè, ha sbagliato, quindi vada a casa. Cioè, ma perché nessuno si assume mai delle responsabilità. Ha fatto la scelta logica, forse, prendere l'allenatore che aveva vinto i mondiali, ma è andata male. È andata male sotto tutti i punti di vista. E l'allenatore dice: la responsabilità è mia, quindi insomma la catena di comando in qualche modo dovrà essere cambiata, perché altrimenti significa che mai nessuno si vorrà assumere le proprie responsabilità. Sì. Tutto qua. La ringrazio Andrea, sinceramente questa polemica scatenata intorno ad Abete mi lascia abbastanza indifferente. Non mi aspettavo dimissione, non me l'aspetto da parte di Abete, che pure ha fatto un errore nei fatti e nelle ammissioni, come lei fa notare. Detto questo, non so chi possa venire al posto di Abete a fare qualcosa di diverso, venire un altro del suo stampo, un altro politico, un altro di questo tipo, che insomma mai Prandelli è stato preso, che prosegue nel discorso, ma francamente non mi interessa molto il fatto che Abete si dimetta oppure no. Capello se n'è già andato prima Lippi se n'è già andato prima dell'inizio di questo mondiale con una mossa che non ha avuto precedenti nella storia del nostro calcio, e questo, ripeto, ha disarmato un po' tutta la scena della critica, perché sono tutti rimasti spiazzati. Ok, si assume responsabilità, ma adesso cosa fa? Restituisce i soldi, va sull'isola dei famosi, lo esiliamo, lo crocifiggiamo. Cosa succede adesso? Nessuno ha saputo. Saluto Giuseppe Cruciani, che è arrivato in questo momento, perdonatemi la digressione. È qualcosa di inedito, dicevo nella storia del nostro calcio. Siamo stati tutti un po' disarmati da questa mossa dell'annuncio di Prandelli prima dell'inizio del mondiale. Quanto al resto, insomma, già sentito, no? L'Inter ha 11 stranieri, eccetera. Quello è calcio di club ed è calcio professionistico. Vale non solo per l'Italia, ma anche per gli altri paesi. Dunque non è su quello che bisogna discutere, secondo me. Quello dei Vivai è un discorso molto diverso, che non c'entra molto con questo, con queste scelte dei club. Sono pochi i club che investono sul serio ancora sui Vivai, per i motivi che conosciamo. L'Inter è paradossalmente uno dei club che ha meglio lavorato sui Vivai nelle ultime stagioni, e infatti siamo qui a dire che nella nazionale futuro Balotelli ci sarà sicuramente, e con ogni probabilità ci sarà anche Santon, che si è fermato nella sua crescita a causa infortuni in questa stagione, ma secondo me rimane per quel che si è visto un eccellente giocatore, un eccellente prospetto. È chiaro che i Vivai sono sempre più multietnici, i Vivai dei grandi club che ancora investono in questo settore dell'attività. E su questo punto, insomma, credo che si debba seguire prima o poi anche l'esempio di questa Germania, di questo fantastico melting pot di ragazzini che è arrivata a questo mondiale senza troppe fanfare, che probabilmente, torno a ripetere, non vincerà questo mondiale, ma che sarà una grandissima squadra tra 4 anni in Brasile. Ci fermiamo per il traffico, subito dopo Mauro, provincia di Venezia. Strade in diretta. Proseguono i rientri sulla rete e il traffico è intenso provenendo dalle località di Villeggiatura. Molti veicoli in viaggio lungo la carreggiata nord della 14 Adriatica, con code a tratti tra Pesaro e Rimini Nord, tra Cesena e Cesena Nord e tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Code anche sulla diramazione per Ravenna in uscita alla barriera verso la 14. In Liguria traffico intenso con code verso Genova sulla A10, tra Albenga e l'innesto con la A26. Anche sulla A12 si incontrano code provenendo da Livorno tra Massa e Sarzana e proseguendo tra Lavagna e Genova Nervi. Molti veicoli in viaggio anche sulla A7 in direzione di Milano. Code al confine con la Svizzera in entrata alla barriera di Como Grandate, sulla A9 Lainate Chiasso. Verso Firenze incolonnamenti tra Lucca e Pistoia sulla 11 Firenze Mare. Automobilisti incolonnati all'altezza poi del lago di Garda sulla A4 in direzione di Milano. Andiamo al sud. Traffico intenso e lavori sulla A3 Salerno Reggio Calabria. Si rallenta tra Petina e il raccordo Sicignano Potenza in direzione di Salerno. Molti veicoli in viaggio sulla viabilità locale, poi in Campania. Verso Napoli, sulla statale 145 Sorrentina, si rallenta tra Sorrento e Castellammare, e all'altezza proprio di Castellammare la circolazione risente poi anche di un incidente nelle due direzioni. Con questo è tutto, a più tardi. Promo 24. Chi viaggia in auto deve dare priorità alla sicurezza senza rinunciare a risparmio e prestazioni. Con la campagna Incentivi Sicurezza 2010, Pirelli insieme ad Autostrade per l'Italia e Telepass fa risparmiare fino a 170 euro. Chi acquista 4 pneumatici vettura, infatti, ha 100 euro di incentivo da regalare anche ad amici e familiari per un successivo acquisto di pneumatici. E in più, i clienti Telepass Premium avranno fino a 70 euro di premio in pedaggi autostradali. Promozioni valide fino al 14/8/2010. Info, regolamenti e rivenditori aderenti su pirelli.it. Tempo di sport. Dunque, Cappello che dice: oggi paghiamo noi l'assenza di tecnologia. Non abbiamo sentito prima in diretta i microfoni di Sky. E tra poco credo sentiremo sempre in diretta qualche altro protagonista di questa partita. Mauro, provincia di Venezia, buonasera. Sì, pronto, buonasera. Intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Dunque, io vorrei parlare di un argomento che penso ne parleranno giornali, televisioni nei prossimi giorni, perché secondo me si tratta di una cosa veramente eclatante. Cioè, il gol non concesso a Lampard, lei dice? Sì, infatti, io penso che una squadra, per quanto abbia giocato male, diciamo, inizialmente, tanto da subire, diciamo, i due gol dalla Germania, nel momento in cui riesce ad accorciare le distanze, segna il 2-1 e dopo vede un gol netto che le viene annullato, secondo me il morale, per quanto possa essere forte una squadra, cala e si deconcentra, e è logico che dopo la partita va a finire. Secondo me no, non giocano più con lo spirito per cui giocavano prima. Ma io penso che se è una grande squadra e se si sente penalizzata in questo modo, non si sgonfia ma reagisce. Se è una grande squadra vera e se ne ha. Detto questo, il gol era dentro. Detto questo, si apriranno mille dibattiti. Detto questo, secondo me la Germania, al di là di questo gigantesco episodio, ha fatto a pezzi l'Inghilterra, e questo è il risultato della partita. A prescindere anche dalle implicazioni psicologiche di quel gol, perché alla fine era 2-1 e c'era un tempo intero per rimontare, per cambiare la storia l'ha fatta la Germania oggi, facendo a pezzi l'Inghilterra con due contropiedi che, ripeto, con questa fisionomia è raro vedere sui campi internazionali ad alto livello. Però qui chiedo aiuto a Fabio Tavelli da Sky e da Sudafrica. Ciao Fabio. Buongiorno Carlo, ormai buonasera a tutti. Buonasera, cosa ne pensi di questo Germania-Inghilterra, di questo episodio del colossale? Non può nascondere il fatto che l'Inghilterra è una delusione quasi pari a quella dell'Italia. Ma la delusione è enorme perché l'Inghilterra non ha mai giocato una partita buona. Anche questa sera ha toppato miseramente, nel senso che la Germania ha strameritato. Ha ragione chi dice che quel gol avrebbe cambiato. Beh, intanto avrebbe cambiato il risultato, perché sarebbe stato un 2-2 in quel momento, con tutta l'inerzia della partita, che sarebbe cambiata e sarebbe andata a favore dell'Inghilterra. Ma non possiamo dimenticare che comunque l'Inghilterra ha avuto un quarto d'ora per ragionarci, che quando è rientrata in campo non era la squadra che tutti ci aspettavamo. Credo che questa partita metta una pietra tombale sulla convivenza di Lampard e Gerrard, e ormai credo che le prove siano diventate talmente tante che questi due non possono giocare insieme. Oggi Gerrard ha giocato con gli altri, che non è possibile pensare che questi due giocatori possano di nuovo essere riproposti insieme. Cioè, la somma di due grandi giocatori li annulla, non dà veramente niente. La difesa è imbarazzante, ho visto John Terry in una difficoltà colossale contro Miro Klose, che è un giocatore che quest'anno ha fatto 3 gol in tutta la stagione e ne ha già fatti 2 al mondiale. Müller ha giocato una partita fantastica, io l'avevo visto male contro il Ghana, contro gli inglesi ha giocato una partita fantastica, anche perché Cole da una parte e Glenn Johnson dall'altra sono stati fatti a pezzi, uno da Podolski e l'altro da Müller. Detto questo, veramente, cioè, l'Inghilterra non cioè, va a prendere Fabio Capello e gioca come se l'allenasse Redknapp o Allardyce. Secondo me è una bozzatura pesantissima anche nei confronti di Capello, che non ha dato uno straccio di gioco a questa squadra. La squadra oggi non ha minimamente idea di come riorganizzarsi. Ha trovato questo gol con Upson, ma veramente James ha fatto una scemenza sul primo gol, ma ha fatto due grandi parate, poi altrimenti era già 4-1 nel primo tempo. Certamente. Poi del fatto che il gol di Lampard Fabio, io riproviamo a ristabilire la linea che va e viene. Adesso proviamo a richiamare Fabio Tavelli. Intanto, mentre rifacciamo il numero, c'è Gerard che sta parlando con Sky, con Pardo. Depressione in Inghilterra. We should be going further into these tournaments, but unfortunately we've been beat today. It's really disappointing. È veramente una grande delusione per noi, perché comunque dobbiamo andare. You think you want Fabio to stay for the next 2 years? I want Fabio to stay. Sì, io voglio che Fabio rimanga, ho molto rispetto per lui, è un grande allenatore, però le sue decisioni spettano a lui. Questo era Gerrard, capitano dell'Inghilterra, che oggi, come diceva giustamente Fabio Tavelli, ha giocato una partita da coprirsi gli occhi. Fabio è anche, credo, il fallimento oltre di cappello di questa generazione di giocatori inglesi, no? Lampard e Gerrard non penso che avranno più tanti mondiali da protagonisti. Altro caso è quello del fallimento totale di uno dei giocatori più attesi, cioè Wayne Rooney. Sì, Rooney oggi sembrava ia quinta, è molto generoso, molto, molto attento, molto per gli altri, ma Rooney non si chiede questo, cioè Defoe ha fatto molto più di lui in molto meno tempo. Sinceramente io sono quasi sconcertato dalla prestazione dell'Inghilterra oggi, cioè una squadra senza capo né coda, con una difesa che ha ballato la rumba per tutta la partita. Trovo che Löw abbia vinto contro cappello tatticamente la partita oggi con un da tutti i punti di vista, sì. Si può sbagliare partita, intendiamo. Fabio, quanto pesa secondo te su questa partita quel gol? Non solo ovviamente per i 2-2, ma c'è l'ascoltatore che prima dice però cambia tutto psicologicamente, emotivamente, eccetera, eccetera, eccetera. A me sembra un episodio che insomma non può giustificare il secondo tempo britannico. Carlo, se ci fosse stato un episodio così nel secondo tempo avrei potuto dar ragione all'ascoltatore. Sì, certo. Però quando tu hai la possibilità di andarci a parlare sopra un quarto d'ora, quando hai la certezza che questo episodio ti è venuto contro, ti ha giocato contro, però magari puoi anche pensare che i primi 3 fischi del secondo tempo saranno a tuo favore. Non a caso Friedrich è stato, che secondo me è un grandissimo difensore, è stato ammonito al primo contatto del secondo tempo, perché l'arbitro è entrato in campo nel secondo tempo, aveva gli occhi spiritati perché gliel'avevano detto anche a lui quello che era successo. Quindi in questo caso una grande squadra prova ad approfittarne. L'Inghilterra non è una grande squadra, anche in questo ha avuto un quarto d'ora di tempo per rimettere a posto le idee, per resettare tutto e dire ok, va bene, ci hanno tolto una cosa importante, ci hanno tolto una cosa buona, adesso noi gliene facciamo un altro e vogliamo vedere se ci annullano anche questo, se ce ne annulleranno anche questo, gliene faremo un altro. Questo dice e fa e certo. Pensa una grande squadra. L'Inghilterra è entrata morbida. Bravissimo. Ha preso 2 gol, cioè io trovo che sul gol di Müller, gol del 4-1, Barry faccia una figura clamorosa e veramente non ha funzionato niente oggi. Fabio, per chiudere, 23 belve pronte a dare tutto per la maglia, stiamo per entrare in campo, voglio dire che abbiamo tutta la voglia di dare un'allegria agli argentini in questo mondiale, lettera che Maradona scrive al popolo argentino. Beh Carlo, 25, perché ci siamo anche io e te, oltre ai dell'Albiceleste, per cui sì, guarda, fra un paio d'ore sono lì, ripeto, faccio fatica a non simpatizzare per il Messico, ma in questo momento mi sento veramente tutto dalla parte dell'Argentina, però ti dico anche che sarà molto molto difficile, perché durissimo. Come ti ho detto ieri, il Messico ha tutte le armi per far male all'Argentina. Non vedere Samuel in campo e vedere De Michelis, Burdisso, Heinz e Otamendi davanti al portiere è una preoccupazione certissima. Certo. Sono convinto che Maradona abbia fatto bene a schierare Maxi Rodriguez e non Veron, e poi per il resto tutto viene cancellato alle 8:30, perché anche oggi nessuno avrebbe previsto un 4-1, quindi può succedere veramente di tutto. E alle 8:30 io e te con l'Argentina e gli argentini siamo in trincea. Grazie Fabio Tavelli, che ritroverete domani dalle 14 con Gigi Garanzini e speriamo con la maglia albiceleste addosso, anche se non si può vedere per radio, io certamente l'avrò. Prima di fermarci un attimo, Rolando da Siena. Sì, pronto? Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Niente, io prima ho visto la partita su Sky. Sì. E ho sentito un'analisi, non so da parte di chi, che condivido pienamente. Cioè la Germania, si aperta su questo, la Germania ha iniziato un processo di naturalizzazione dei suoi giocatori a partire da 12, 13, 14 anni fa. E infatti sulle, diciamo così, tra i giocatori tedeschi sono pochi quelli tedeschi, la maggior parte sono giocatori che derivano direttamente, più o meno direttamente, da famiglie dalla Polonia, dalla Russia, dal Brasile, dal Cile. Quindi voglio dire, io credo che dovremmo intraprendere anche noi come italiani, visto che abbiamo l'unica squadra che ha vinto il campionato, ha stravinto anche la Coppa dei Campioni, dove l'unico italiano o uno di due italiani è di colore, senza voler essere ma in assoluto razzista, ma dire, chiaro, Balotelli qual è il problema? la via, il mondo è questo, la via è questa, e insomma ci sono italiani di colore, ci saranno di qualunque colore, se possono vestire la maglia della nazionale non vedo perché no. Io credo che credo che il mondo vada in questa direzione, no? Se vogliamo che far vestire la maglia nazionale soltanto a quelli bianchi nati all'interno dei confini italiani, beh, io non ci sto, perché non condivido questa teoria, dunque non mi riconosco in questa politica. Ad esempio, leggetevi a pagina 49 della Stampa oggi i nuovi oriundi. Fondamentali club, il loro compito aprire ai giocatori dal doppio passaporto. La Federcalcio dovrà convincerli a scegliere l'Italia, così ripartirà la nazionale di Prandelli. Ma non è un discorso utilitaristico, è che il mondo va in questa direzione, il mondo è questo. Il mondo non è più fatto soltanto da quelli che sono nati dalle Alpi alla Sicilia e basta. Il mondo è questo, semplicemente. Marco da Roma. Marco da Roma, lo facciamo dopo la pubblicità, che dite? A dopo. NCS, non ci siamo! Stagisti che sono qui da 30 anni, manager stressati, gente che voglia di lavorare saltami addosso, ma cos'è questa qui? Un manicomio o un'azienda? E perché, capo? Che differenza c'è sta? Il Sole 24 Ore e Radio 24 presentano ZOT, fulminati in azienda. Dal 22 giugno in edicola con Il Sole 24 Ore, il libro rivelazione e il CD audio con la prima fiction umoristica che racconta i paradossi delle aziende. In collaborazione con Citroen DS3, antiretro, fate una cosa nuova, vivete la vita, adesso! Pa, senti, sto cercando di risolvere i tre enigmi. Ehi, fratellone! Non ora, devo vedere Carmen. Ci risiamo. È iniziato il Festival Lirico dell'Arena di Verona, vero? Dal 18 giugno al 29 agosto, all'Arena di Verona, le opere più famose in uno scenario unico al mondo, dove lo spettacolo inizia prima di cominciare. Per info e biglietti, arena.it e 045 851 51. Aida, ho i biglietti! Sei un trionfo! Sono l'antropologo Erminio Balladori in uscita con i miei allievi per studiare dal vivo la tribù Linear. Professore! Tu, il primo della classe! Ho osservato che nella tribù Linear c'è un culto particolare, quello del rispetto. Infatti... Rispetto della trasparenza, dei tempi di liquidazione. Certo, e... Delle opinioni dell'assicurato. Appunto. E rispetto del suo denaro. Con Linear si può risparmiare fino al 40% sull'RC Auto. Ma se dici tutto tu, io che ci sto a fare? Dica il numero verde. Ah già! 800-11-2233. Fonte libretto rosso 4 ruote 2009. Vuoi aprirti le porte del lavoro? Scegli LIUC, l'Università di Castellanza. LIUC è pensata dalle imprese per le imprese. LIUC ti segue con attenzione e ti prepara in modo accurato. LIUC è internazionale, con programmi di studio all'estero. Entra subito nel mondo del lavoro. Iscriviti al test di ammissione. Vai su liuc.it. La tua Sardegna privata? Carla, cosa stai dicendo? Sì, Marta, una penisola privata tutta per me. Come? È l'Arbatax Park Resort, 60 ettari di natura incontaminata, mare cristallino e un nuovissimo centro benessere. Ma è un paradiso! E il trattamento all inclusive parte da soli 66 euro. Carla, dove vai? A rubarti il posto! Ah, le amiche, ma io ho già prenotato. www.arbataxpark.com, la penisola privata per le tue vacanze. Tariffe da 66 euro a persona. Prezzi inizio e fine stagione per minimo una settimana. A tempo di sport. Torniamo con Marco da Roma. Vediamo se riusciamo a parlarci ora. Pronto, sì, buonasera. Buonasera. Senta, io chiamo per avere, volevo farvi innanzitutto i complimenti per come gestite la trasmissione. Volevo avere da voi una vostra opinione, appunto riagganciandomi anche all'ultimo intervento sui vivai in Italia. Non pensate che la situazione italiana, forse diversamente dal resto di tutte le nazionalità europee, non sia regolamentata a livello sportivo? Noi abbiamo dei vivai spesso gestiti da personale non qualificato. Per esperienza personale posso dirvi che nel resto d'Europa i famosi istruttori, quelli che da noi vengono chiamati istruttori della scuola calcio, sono insegnanti che provengono da facoltà universitarie. Noi in Italia abbiamo delle facoltà universitarie di scienze motorie che sfornano tutti gli anni disoccupati che nessuno conosce. Qual è la vostra opinione su questo tema, di cui poi nessuno alla fine... Ma io credo, Marco, non lo so, certamente la parola chiave è investimento, no? Investimento vuol dire prendere personale qualificato, vuol dire spendere innanzitutto per gli istruttori e per gli allenatori. E in Italia c'è poca gente, sono pochi club ad alto livello che investono ancora sul settore giovanile, anche club che hanno fatto dei settori giovanili in passato loro marchio di fabbrica, l'Atalanta, lo stesso Torino, insomma sono club che non hanno più le potenzialità per investire in maniera pesante su questo settore della loro attività, che non vogliono più farlo per la legge Bosman, per la crisi, per motivi vari assortiti. Ormai sono pochi i club che investono sul serio sui settori giovanili, nella formazione degli istruttori, nel reclutamento e in quant'altro, e quei pochi club i risultati li trovano. C'è ancora la Sole Tudinese, che è un esempio di questo paradigmatico, no? Di quello che è il nuovo settore giovanile di un club in Italia, cioè non fatto soltanto da giocatori italiani, ma da giocatori che provengono da ogni angolo del mondo. Adesso io farei un salto in Spagna, perché lì è tornato Filippo Maria Ricci. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Dopo lungo peregrinare che abbiamo seguito attraverso le pagine della Gazzetta dello Sport, ecco che è tornato. Ero un po' preoccupato, ti confesso. No, ma in realtà tutto bene, a parte Lagos è veramente un posto complicato, il resto Da non farci le vacanze? No, lì direi di no. Per il resto però sì, è chiaro che uno non andrà mai in vacanza ad Abidjan, però in realtà sono posti, ho trovato dei posti molto belli, un'Africa molto cresciuta anche rispetto a qualche anno fa, e molto interessante, e una sfida anche, insomma, bello parlare con la gente, bello misurarsi con situazioni completamente diverse, sia di povertà che di ricchezza, perché c'è ormai anche tanta ricchezza in piccole, no? Piccole fasce, e una visione del calcio e della vita molto diversa. E no, è stato veramente un viaggio spettacolare per quanto mi riguarda, insomma un'esperienza molto molto interessante. Senti, ma l'Impi ce l'ha fatta tornare, l'hanno imbarcato, secondo te Capello lo lasciano lì? Capello non ha capito, secondo me, due cose. Una, che gli inglesi ti portano il più in alto possibile perché si divertono un mondo a vederti cadere, ed era successo con Eriksson, che non dimentichiamoci che aveva vinto 5-1 in Germania, e io me li ricordo ancora i titoli come Svensational e via dicendo, e poi l'hanno trattato come come quello, l'ultimo arrivato e via dicendo. E secondo me Capello si è un po' illuso, pensava di avere gli inglesi dalla sua parte. Gli inglesi non saranno, soprattutto la stampa penso non sarà mai dalla tua parte fino in fondo, perché comunque a loro lo scandalo, la notizia diciamo disastrosa, piace molto di più che quella di successo, ed è questo per cui il motivo per cui la nazionale non vince mai da ormai quasi 50 anni. E è una sindrome degli inglesi molto molto precisa, e loro amano farsi del male, e così è stato anche stavolta. Secondo errore è quando lui, che secondo me non ha, anche lì forse non ha capito la psicologia dei suoi giocatori, e questo mi sembra strano, è quando lui gli vieta l'alcol. Voglio dire, è come se tu obbligassi i giocatori italiani a farsi 3 gin tonic prima di andare a letto, dopo il giorno dopo non rendono, però che all'inglese tu gli lievi la birra per un mese, voglio dire, hai capito, non hai capito niente del popolo, perché lì loro non... E infatti dopo gli inglesi a me sono sembrati molto che pensassero troppo, magari con qualche birretta pensavano meno e avrebbero giocato di più. Io ho visto l'inglese preoccupato, e molto intimorito, no? È un po' che è lì, sono 2 anni che è lì, insomma non avevano ancora capito com'era la storia. Poi io lo conosco bene, non è un errore da Capello, però non lo so, questo è un, c'è qualcosa lì che non mi torna. Magari insomma avrò l'occasione di parlarci prima o poi, e questa sarà la mia domanda, sarà questa, insomma c'è stato un errore, si sono un po' perse, lui era il generale con i suoi soldati e tu non puoi togliere alla fine alla truppa ciò che gli piace di più, diventi un generale lontano dalla truppa e lui si è allontanato. Sì, anche probabilmente anche il fatto di aver detto beh adesso ogni risultato inferiore alla vittoria di questo mondiale sarà comunque una sconfitta, andiamo lì per vincere. Era un'Inghilterra francamente paralizzata, no? Perché per tutti questi, per tutto questo insieme di motivi, compreso il fatto che per la stampa britannica si apre praticamente la settimana di carnevale da oggi fino a chissà quando. No, ma una cosa anche che secondo me lui ha sottovalutato, io l'ho sempre detto qua, io insomma mi hanno fatto tante domande sull'Inghilterra, io ho sempre risposto in un solo modo: per me l'Inghilterra non poteva vincere il mondiale e nemmeno avvicinarsi tanto al titolo per motivi molto semplici. Guardando i giocatori non c'era abbastanza qualità, tu non puoi vincere il mondiale senza il portiere, non puoi vincere il mondiale con praticamente la brutta copia di Luther Blissett che sarebbe Eschi, non puoi vincere il mondiale con i vari Upson, Barry, Lennon, Milner, me ne dimentico sicuramente qualcuno, è gente mediocre. Se vogliamo fare un paragone, sono un po' come i nostri azzurri. Sì, ma il paragone, guarda che ci sta tutto, ci sta tutto. Noi avevamo, cioè non si vince il mondiale, con tutto rispetto, con Quagliarella, Iaquinta, Di Natale, certo, e i vari, gli altri, Marchetti, Marchisio, Criscito, Maggio. Cioè, poi tu dici la stella ce l'ho in panchina e magari mi basta quella, no? E invece no, non è così. Io vivo all'estero, no? Io vivo all'estero. E questa è gente che qua non conosce nessuno. Montolivo, fuori dall'Italia non lo conosce nessuno. Ci sarà un motivo? Sì, sarà, no? Ma certo. Cioè, vanno bene, cioè, sono giocatori così, da primo turno raffazzonato, sì. E poi cioè, ti stai misurando contro squadre come Brasile, Argentina, Spagna o la stessa Germania, che hanno delle qualità, hanno dei talenti. Sì, non ne conosce nessuno, anche perché, pure, no? Anche perché esperienze internazionali non ne hanno molte, questo è un altro punto, no? Sono comunque giocatori, quelli degli stessi dell'Udinese, che non è che abbiano giocato 1000 partite in Coppa. L'Udinese in campionato, quindicesima? Sì, no, ma poi... L'Inghilterra è lo stesso, l'unico uomo di qualità è Rooney, gli hai tolto il suo carburante e questo qua comincia a pensare, se Rooney pensa è finita, perché non è che proprio c'ha tutte queste cose a cui pensare, era lì sperduto con tutta l'Inghilterra sulle sue spalle, ma cosa deve fare quel ragazzo? L'hai tolto dal suo habitat. Sì. È anche il fallimento della generazione Lampard e Gerrard, se vogliamo. Però anche quella è una generazione che comunque ha vinto molto meno di quello che a noi sarebbe piaciuto che avesse vinto, non so, perché poi sai, in Italia piace molto il calcio inglese, Lampard, Gerrard, noi no, ci riempiamo anche un po' la bocca, che vanno bene a livello di club, però a livello di club sappiamo bene che l'Inghilterra ha un bellissimo campionato che fornisce alla nazionale il 32% dei giocatori, adesso sono tutti stranieri. Allora sai, è un po' come l'Inter, l'Inter non rappresenta il calcio italiano. Rappresenta se stessa, naturalmente, se stessa, ma come è giusto che sia, secondo me, nel calcio professionistico del 2010, a livello di club, le vie, secondo me, devono essere altre, ad esempio quella della Germania, no? Che comunque ha portato una squadra molto giovane, molto composita, melting pot tedesco, con talento e con la voglia di rischiarli, cosa che ad esempio noi mancherà in eterno. Filippo, voglio chiederti ancora una cosa: calcio africano, se non c'era il Ghana a salvare la faccia del calcio africano, questo era il mondiale più disastroso, compreso il fatto che giocava in casa, no? No, soprattutto per quello, voglio dire. E calcio africano molto male. Io mi riallaccio a quello che a un paio di cose che mi hanno detto da una parte Roger Miglia, dall'altra Patrick Mboma. Secondo me è un punto di Mboma molto interessante, ex centravanti di Parma e Cagliari. Lui dice: noi un tempo avevamo, in Africa c'erano tanti numeri 10, però adesso, siccome in Europa vogliono solo il Vieira o l'attaccante, le squadre africane sono, per esempio a centrocampo, sono piene solo di muscolari, non c'è più un numero 10, perché in Europa nessuna squadra si sogna di dare le chiavi del suo gioco a un africano, e è stato snaturato il modo di giocare, per cui come giocano queste squadre africane non si sa. E un tempo, ai tempi sì, dell'82 o il 90, questo Camerun così, c'erano ancora anche lì allenatori europei che però lasciavano più spazio anche a quello che era il talento, anche un po' la follia africana. Adesso viene tutto incanalato e non esce niente. Però io dico una cosa, che poi l'Africa su questo è spettacolare, per cui magari adesso si ritrova il continente che non è mai andato oltre i quarti ad avere un quarto di finale con la sua unica rappresentante abbordabile, perché poi magari il Ghana può perdere, però il Ghana può anche arrivare in semifinale, e questo fa un po' parte, quindi alla fine magari rappresentato questo mondiale, sì, come quello della revanche del calcio africano, esatto, no? Che non è, però non è così, insomma, ecco, io era una grande occasione andata persa, Milla parla di disciplina, organizzazione e pazienza, cose che mancano, lui dice che non c'è una carestia di queste materie prime in Africa, ed è così, insomma, le squadre sono spaccate, ognuno pensa solo a se stesso, queste grandi stelle europee non riescono a ritrovarsi quando tornano in Africa, a cominciare da Eto'o e da Drogba, l'ego che prende il sopravvento, tecnici di secondo piano, e purtroppo è finita così, insomma, ecco, molto molto male. 3 vittorie su 18 partite, sì, sì, nella fase iniziale. E soprattutto con quelle più attese, mi riferisco soprattutto alla Costa d'Avorio, che ha giocato con grande presunzione il suo girone, secondo me, e compresa la delusione Cameron, che io e te avevamo insieme in coro pronosticato, con Le Guin, allenatore che poteva dare un volto più compiuto a questa nazionale, invece altro grande fallimento di questo mondiale. Grazie Filippo, ci sentiamo alla prossima domenica, al più tardi, ma se non prima, bene, perché veniamo a trovarti la sera nei nostri speciali. Grazie Filippo Maria Ricci. Prima del traffico ho Gabriele da Milano. Buonasera. Buonasera. Volevo fare 2 interventi. Dica. Sicuramente sono d'accordo con voi sul fatto che la Germania abbia meritato di vincere e che un episodio non possa condizionare una partita. Però anche il gol della Germania a me sembrava in fuorigioco. Quale? Su rinvio del portiere. Sì. Non ho avuto occasione di rivederlo. Mi sembra difficile, però. Su rinvio. Esatto, sì, sì, sì. Sì. Il gol della Germania, sì. Io l'ho visto purtroppo, e qui volevo riallacciarmi all'altro argomento che volevo toccare, su internet, è brutto dirlo, sulla TV svizzera. Sì. Ma hanno fatto vedere... Perché è brutto? Meno male che c'è la TV svizzera che permette a molti di vedere il mondiale. Ma no? Infatti il secondo argomento era quello che volevo trattare, che è uno scandalo che la televisione italiana faccia vedere 25 partite su 64 disponibili quando c'è un evento mondiale. Questo perché non hai i soldi per comprare i diritti, perché deve farci vedere l'Isola dei Famosi o qualcosa di questo tipo. Cioè, io non so se voi l'avete mai trattato questo argomento, ma io in giro volta, sulla stampa e sui quotidiani, non ho mai visto un approfondimento polemico da questo punto di vista. Sì, qualche volta è capitato, Gabriele, le assicuro che qualche volta è capitato. Io da questo punto di vista sì, capisco la delusione dei telespettatori, anche oggi ne ho avuto ampi esempi attraverso gli SMS. Però continuo a pensare che il calcio in chiaro in TV nel 2010 non possa essere un diritto acquisito. Quindi questo vale per noi, ma vale anche per molti altri paesi, no? A cominciare dagli Stati Uniti, per cui lo spettacolo sportivo ormai da anni via cavo si paga. C'è Cappello in conferenza stampa? German press a question, Mr. Cappello. Una domanda per lei, signor Cappello. L'Inghilterra potrebbe avere i migliori giocatori individuali del mondo, però ci può spiegare perché non riescono a creare una squadra? Abbiamo giocato non male nei primi 20 minuti, ma dopo 25 minuti abbiamo visto che la Germania era più veloce. Penso che comunque abbiamo segnato 2 gol. In quel momento Germany suffered. Ho visto che la Germania stava soffrendo. Però dopo il 3-1 non abbiamo più giocato e loro hanno poi segnato il quarto gol. Ma dopo il terzo gol noi non abbiamo più giocato. Dunque la birretta di cui sopra è sempre più mia, no? Avevamo segnato 2 gol e Cappello torna su quell'episodio. È chiaro che questo è il grande alibi per un fallimento totale della sua nazionale inglese. Traffico. Risponde IMSS per te, parlate dopo il bip. Ho sentito parlare dei buoni lavoro, ma di cosa si tratta? Quali sono i requisiti per andare in pensione? Devo richiedere la pensione di invalidità, ma non so cosa fare. Come faccio a riscattare gli anni di studio ai fini pensionistici? Vai su radio24.it, entra nella sezione IMSS per te e mandaci le tue domande. Scopri i nuovi server HP con processore AMD su radio.hp.com. Vi presenta Strade in diretta. Un incidente è la causa degli incolonnamenti sull'autosole tra Firenze Sud e Firenze Certosa, 3 chilometri di code in direzione di Bologna. Sempre verso Bologna traffico di rientro sulla A14 Adriatica con code a tratti tra Pesaro e Rimini Nord, tra Cesena e Cesena Nord e tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Code anche sulla diramazione per Ravenna in uscita alla barriera verso la A14. Verso Firenze incolonnamenti per traffico intenso tra Lucca e Pistoia sulla A11 Firenze Mare. Traffico molto intenso anche in Liguria in queste ore con code verso Genova sulla A10 tra Albenga e l'innesto con la A26. Anche sulla A12 si incontrano code provenendo da Livorno tra Massa e Sarzana e proseguendo anche tra Deiva Marina e Genova Nervi. Molti veicoli in viaggio in direzione di Milano anche sulla A7 Milano-Genova. Automobilisti rallentano per traffico intenso all'altezza del Lago di Garda sulla A4 in direzione di Milano. Code all'altezza dei laghi attorno a Varese sulla A8 dei laghi e sulla diramazione Gallarate-Gattico. Traffico intenso e lavori rallentano la circolazione sulla A3 Salerno-Reggio Calabria tra Petina e il raccordo Siciliano-Potenza in direzione di Salerno. Molti veicoli in viaggio sulla viabilità locale poi in Campania. Verso Napoli sulla statale Sorrentina si rallenta tra Sorrento e Castellammare e traffico che risente ancora delle ripercussioni di un incidente all'altezza proprio di Castellammare in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, ci risentiamo tra mezz'ora. A tempo di sport. Marina da Milano domanda quanti giocatori del Bayern Monaco sono presenti in questa nazionale tedesca contribuendone al successo. Oggi ce n'erano 4 tra i titolari: Lahm, Schweinsteiger, Müller e Klose. Di questi soltanto 3 sono titolari fissi nel Bayern, cioè Lahm, Schweinsteiger e Müller, mentre Klose non lo è. Capello ha detto: non penso alle dimissioni dopo questo fallimento, avremo modo e tempo per parlarne e chissà cosa dirà dopo l'attacco che mi aspetto pazzesco da parte della stampa britannica. Andrea Zorzi, dove sei? Sono a Falconara oggi, giornata da rompete le righe. Cioè? Sei in spiaggia a prendere il sole? No, non in spiaggia, sono a casa di mio amico Masciarelli, una casa meravigliosa. No, oggi, anche perché dopo 25 giorni di viaggio, il camper, sai, è bello. Ci voleva. È bello, per carità, però... 24 ore di libertà, uno di qua, uno di là, e quindi domani ci ricompattiamo. Stasera, domattina andiamo dalle parti di San Benedetto, dove incontreremo una situazione legata allo sport e alla scuola, in cui parleremo con Edio Costantini, l'ex presidente del CSI, il quale ha scritto alcuni libri molto interessanti sul concetto di sport, cosa significa sport per tutti, su quali sono le caratteristiche. Quindi insomma oggi diciamo abbiamo un po' preso il tempo per riposarci un attimo, perché effettivamente è molto impegnativo viaggiare, e poi anche per mettere qualche metro tra l'uno e l'altro, così domani siamo meglio. Senti, ma in settimana dove ci porti? Guarda, una settimana per noi molto intensa, però molto interessante. Domani San Benedetto, dopo stiamo 2 giorni all'Aquila. Un giorno facciamo un giro nella zona rossa e il giorno dopo incontriamo invece il gruppo del rugby allo stadio e una ragazza che gioca a pallavolo che è stata estratta dopo qualche ora dalle macerie. Quindi parliamo un po' della situazione del rugby, un po' complicata, perché io sono senza campo, non ci sono sponsor, sta per iniziare l'operazione e non sanno se hanno la possibilità di farlo. Quindi ovviamente a noi interessa l'idea di vedere un po' lo sport come è stato segnato dal drammatico evento del terremoto. Poi andiamo al Teramo perché tra qualche giorno c'è un torneo molto importante di pallamano, l'Interamnia, ci sono 30 squadre di 30 paesi diversi. Poi andiamo verso Matera perché è un luogo meraviglioso che però parla poco di sport. Pensa che la Basilicata è l'unica regione in Italia che non ha mai vinto una medaglia e negli ultimi anni non ha alcun atleta che ha partecipato alle Olimpiadi estive o invernali. Non che sia una novità, però insomma è un'occasione per fare 2 chiacchiere su quella situazione. Poi giriamo verso Napoli, in cui incontreremo Pino Maddaloni per parlare in questo caso sia di Olimpiadi ma anche di effetti della sua attività sul sociale. Risaliamo su Roma per fare un po' il resoconto con il CONI, con chi si occupa di politiche dello sport. E come ti dicevo ieri, chiuderemo poi a Bologna, a Casa Vecchio di Reno, in occasione del mondiale antirazzista, che mi sembra davvero una bella occasione per chiudere un viaggio. Che è quello dove si gioca non per vincere ma per partecipare. Poi rigorosamente non competitivo. Senti, ti consiglio di ricaricare bene le pile, che stiamo solo a metà. È lunga. Sì. È lunga da morire. Devo dire molto, ma molto interessante. Ti assicuro alcuni momenti di di grande emozione, anche alcuni incontri meravigliosi come con Lucarelli, che non conoscevo, personaggio straordinario, e l'Alto Pizzo, Josefa Idem, invece Trellini li conoscevo un pochettino, e quindi molto molto interessante. Però in questo viaggio, più di quanto mi immaginassi, abbiamo incontrato una realtà sportiva un po' nascosta. Infatti, chiacchierando con chi non segue, chi non vive con me nello sport, l'idea è un po' quella che alla fine lo sport in generale è un po' diverso da quello che uno si immagina, da quell'immagine che traspare dalle TV, dai giornali, un po' perché si parla molto del calcio e poi degli altri sport, e poi perché c'è un senso di umanità che effettivamente a volte è difficile far trasparire quando si fanno brevi interviste, certo, magari mirate a raccontare com'è andata, sei contento, certo, chiaro, non sei contento. Chiaro. Grazie Andrea, ci sentiamo domani sera, buon viaggio. Ciao a tutti, ciao. Buon ritorno in viaggio per Andrea Zorzi, che troveremo naturalmente domani sera e tutte le sere che verranno, perché dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10 e mezza continueremo a parlarvi di mondiale, a sentirvi parlare di mondiali più che altro, perché questa è la parte più divertente e interessante. Chiudiamo invece questo programma parlando, ampiamente sollecitati da vari ascoltatori, mi era già in scaletta, di Formula 1. Mario Poltronieri, buonasera. Buonasera, ciao Carlo, buonasera a tutti. Gran premio abbastanza incasinato quello di oggi. Beh, diciamo che le direzioni di gara, vuoi per il calcio, vuoi specificatamente nel caso della Formula 1, oggi veramente sono andate molto giornata male. Giornata storta, sì. E, ti dirò, la Ferrari ha ragione di protestare, ma quello che ha innescato tutto è la famigerata safety car che è stata fatta uscire quando era praticamente già quasi passato Hamilton. Adesso Hamilton viene accusato di essere il solito furbetto, sì, senza dubbio non è uno che coglie subito le occasioni, però la responsabilità vera di tutta questa situazione è esclusivamente della direzione gara. Vorrei notare una cosa comunque: partiamo dal presupposto che la classifica venga modificata togliendo quei sei concorrenti che sono andati troppo velocemente durante i giri, sì. Dietro la safety car. C'è il comunicato, lo saprai, non sono stati sanzionati tutti quei corridori, ah, con una penalità di 5 secondi in classifica, i 9 piloti che hanno ecceduto le velocità massime per accodarsi al safety car dopo l'incidente di Webber. La lieve sanzione permette al ferrarista Alonso di guadagnare una sola posizione e di scavalcare la Toro Rosso di Buemi, dunque non nono ma ottavo Alonso, e questo sì, è il verdetto. È un peccato perché, come dico, la penalizzazione dovrebbe essere equivalente all'attraversamento dei box, quindi nel caso specifico di una ventina di secondi. Evidentemente anche qui hanno cercato di mediare, però la cosa che mi ha colpito di più, ti dirò francamente, è che in tutto questo discutere, scrivere, parlare, eccetera, si è completamente dimenticata la cosa più grave della giornata, e cioè l'incidente della mattina, simile a quello poi il pomeriggio di Webber, che mi ha ricordato la morte di Villeneuve. Qui fortunatamente le scocche sono diventate un po' più robuste, ma che a distanza da 40 anni non si riesca ancora a capire che la ruota anteriore, quando va a contatto della ruota posteriore, trova un trampolino e vola, certo, per aria, è una cosa che ti dimostra quanto poco nella Formula 1 ci si preoccupi di questi problemi, ma invece quelli di cercare magari dei cittadini non molto divertenti, ma che portano 150.000 spettatori. Chiaro. Quindi secondo me è giusto parlare del regolamento che non funziona, ma soprattutto bisogna parlare anche della sicurezza, e questo io non lo vedo. Spero che l'intervento della Pirelli, l'ingresso come fornitore unico dai pneumatici nei prossimi 3 anni, dia un contributo perché venga migliorato diciamo l'insieme, il pacchetto di quelle che sono le norme che regolano le corse, per esempio facendo delle gomme di cui si possa sapere esattamente qual è il rendimento. Senti, Mario, perché quest'ultima parte della stagione, sia nelle moto sia nelle auto, non si sa mai le gomme se vanno bene o non, certo, se non vanno bene, certo. Ora, d'accordo che è spettacolare il fatto di fermarsi a cambiare le gomme, però non si può impostare uno sport di velocità e di corsa come l'automobile in funzione delle fermate. Naturalmente. Mario, la Ferrari è in crisi, per chiudere? Beh, la Ferrari diciamo che poteva arrivare terza. Il problema è che mentre la Ferrari procede, anche gli altri continuano. E perché tutti dicono che tutto sommato Vettel in particolare, ma diciamo la Red Bull è la macchina favorita? Perché rispetto a tutte le altre, ha una diciamo sospensioni telaio che le consente di essere più veloce nella curva, all'uscita dalla curva, e compensare anche quella minor velocità che ha in funzione di quel dispositivo che dovrebbe togliere parte della resistenza aerodinamica nei rettilinei. Qui tra l'altro i rettilinei non erano così lunghi per essere importanti. Quindi diciamo che il progetto della Red Bull è molto avanzato. Si tratta di vedere la Ferrari se nei prossimi passaggi riuscirà ad agganciarla, ma il problema della Ferrari comunque è minore di quello che tocca alla Mercedes. Tu prendi la Mercedes che prende le 7 volte campione del mondo e si trova ormai staccatissima e vergognosamente nelle ultimissime posizioni, e vedi che non si può essere certi che vada a finire sempre tutto bene. Io ho fiducia nella possibilità che la Ferrari cresca, a primeggiare in questo nei confronti della Red Bull che continua a correre. Grazie Mario Poltronieri, grazie davvero. Non è evidentemente periodo per i simpaticoni da Lippi a Capello a Michael Schumacher. A proposito di Capello, chiudo con questa: il grande errore dell'arbitro non ci ha permesso di andare avanti nel mondiale, lo ha detto lui in conferenza stampa. Sentiamo domani, grazie a Laura Vanossi per il lavoro in redazione, Pietro Lacorte in regia, ciao a tutti. A tempo di sport.